www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli le lancette si sono di nuovo fermate tutte e due su 12, Kappa e Drago si divertono a fare i conti. Quindi in media vivono 38 giorni. Soltanto? Eh sì, 38 giorni. E in 38 giorni come fanno a diventare polli adulti? Appena usciti dall'uovo sono piccoli così? Vabbè, ma Drago lo sa, in fabbrica si cresce in fretta, si cresce presto. Eh sì, questa è la legge della fabbrica. Ah, pollo in sbattimento, vedi? Proprio tu. Lui, sì, certo. Ma tu i 38 giorni di vita li hai superati da un pezzo, o no? Beh, io modestamente ho superato i 44 giorni. Ma no, anni, no? Ah, anni. 44 anni, complimenti, li porti bene. Non ma, mai scusa, visto, ma anche tu sei diventato un pollo adulto in 38 giorni a furia di nutrizione forzata, immobilità assoluta, sì, gabbie, recinti. Dopo per ma 44 no, anni. Io non sono nato qui. Ah, no. Io sono arrivato qui già cresciuto, no? Ed ero un uomo. Eri un uomo. Un negoziante di dischi, di krautrock. Krautrock, certo, bel krautrock, gli anni 70. Vabbè, poi mi sono trasformato in pollo come tutti gli altri, come voi. E comunque ero già un pollo di 30 passani, Tarek! Pasta asciutta. E questo chi è? E questo è Joao. Joao? Chi è? Eh sì, è un amichetto di Tarek. Sì, però è ancora più giovane di Tarek. Ancora, Cioè, praticamente questo qui ieri era nuovo, Ah, e quindi, scusa, la matematica vuol dire che fra 37 giorni... Eh sì. Povero Joao, allora, Da 40 grammi a 2 kg in 38 giorni. Poi lo tagliano a pezzi, le cosce le mandano in Irkmenistan, il petto resta in Italia. Come sarebbe a dire? Cosa dici, capo? Lo so io cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia ormai, cioè, le cosce non le vuole più nessuno, perché tutti vogliono il petto. Allora, le cosce le vendono in Asia, dove là sono contenti, che si prendono una coscia in mano e se la mangiano come un gelato. Così è semplice, questo è il mercato, Certo. È la legge del mercato. È la legge del mercato. E quindi le cosce di Joao... Le cosce di Joao vanno in Irkmenistan, certo. E lì se le mangeranno tutti con gusto, sorridendo, le cosce di Joao. Ma povero Joao, dai. La coscia di Joao. Dura 2 minuti. Ma sai che onore, Drago, scusa, il petto rimane in patria, Bella consolazione. Come? E poi cos'è adesso tutta questa mania della patria? No, Pollo, è Kappa che stava facendo il sarcastico, come suo solito. E quando fa il sarcastico poi dice cose che non vuole nemmeno dire. Ma cosa quindi di? Ma tira ma fuori che la sarcasmo? Patria così. Ma quale sarcasmo, quale patria, Drago? È tutta verità. I petti di pollo prendono una strada e le cosce un'altra. È mercato, l'ha detto anche il pollo. E quindi cosa? Quindi se io fossi un pollo sarei contento di sapere che almeno il mio petto e non le mie cosce restano in patria. Patria. Ma che patria? Il petto, con tutto ciò che significa, resta in patria. Il mio bel petto andrà alla patria. Le mie due cosce in Irkmenistan. Testa e zampe fare i dadi che la donna d'oggi non sa cucinare. E la mia cresta andrà in padella, il becco invece in farina animale. faranno riposare. La fabbrica di polli! Sì, patria. Se dicevi la parola patria negli anni 70, si mettevano a ridere e poi ti sprangavano. Ma chi? E tutti, no? Sì, tu. Vabbè, ma cosa vuol dire gli anni 70? Pollo, sono 35 anni fa, non è che è ora di finirla con gli anni 70? Come no? No, gli anni 70 sono gli anni 70. Per te che c'hai una certa età sì, ma per gli altri no, la dai. Patria, Pollo, la patria. Allora, adesso mi state a sentire. Abbasso la patria. Io sono un individualista. A me degli altri non me ne frega niente, ma proprio niente. E non è che lo dico così per dire, lo dico perché è vero. Io penso a me e basta. Quindi io, come singolo individuo, non appartengo a niente e a nessuno. Non credo nella famiglia. Non credo nei vicini di casa. Non credo nei partiti politici. Non credo nelle squadre di calcio. Non credo nella chiesa. Non credo negli alcolisti anonimi. Non credo nella patria e non credo nemmeno nella New Age. Però alle squadre di calcio ci credi. Sì, però solo una, Comunque, in ogni caso, voi lo sapete che Oriente e Occidente vivono da secoli divisi da barriere ideologiche. Su cosa si fondano queste barriere ideologiche? Fondano le proprie basi su pregiudizi psicosociologici. La materia, che è rappresentata dal denaro, e la ricerca di se stessi, che è rappresentata dal pensiero, si scontrano da sempre, dando vita a un conflitto. Il NAM, o New Age Management, è una tecnica che, applicando il pensiero alla gestione del profitto, crea i presupposti per la creazione di utili pensati prima delle tasse, i cosiddetti Ponderated Profit Before Taxation, o PPBT. È chiaro? È chiaro il concetto? Pagliacci, è chiaro o non è chiaro? Ve lo devo rispiegare? Non ve lo rispiego, a meno che voi non mi paghiate. Chicken Jeep. Crap. La fabbrica di polli. La cruda verità. In una fabbrica di polli a pieno regime circolano su un astro trasportatore 70.000 uova fecondate alla settimana. Nei reparti di incubazione si schiudono 1.700.000 uova alla settimana. Nelle macellerie muoiono 725.000 galline adulte alla settimana. La vita media di un pollo dalla schiusa alla morte è di 38 giorni. L'abbiamo già ripetuto alla nausea. Infatti mi viene da vomitare. 38 giorni per non morire. Citando il grande compositore Edgar Varese, il pollo di oggi si rifiuta di morire. E già, perché qui in fabbrica è da un po' di tempo che girano dei polli zombie. Zombie. Sembrano come me, come voi, però sono morti. E poi alla fine c'è poca differenza tra un pollo vivo e un pollo morto. Infatti ogni tanto qualcuno muore prima del macello, ma nessuno se ne accorge, perché rimane in piedi lì, stretto insieme agli altri. Che poi lo decapitano e lo spiumano lo stesso, E basta che sia abbastanza grasso, quello sempre. E però alla fine gli zombie sono una menata. Ma voi sapete quanti sono? No, dico, ma lo sapete? Cosa succederà adesso? Chi fronteggerà l'emergenza affollamento dei polli zombie? Ma soprattutto, dove sono i polli zombie? Qualcuno ha già visto un pollo zombie? E Joao dovrà davvero affrontare la sua triste fine tra soli 37 giorni. Pasta asciutta! Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo necromantico allestimento del... La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. Barlumen.com. La fabbrica di polli è trai.it.